Ecco, fortuna che ho trovato il file silenzio in tempo per poter avere del silenzio, perché altrimenti... Senti che bel suono. Questo è il mio Autan, perché a Coxo Spaziale l'estate non finisce mai. No, ma devo dire che Bologna è stata invasa dalle zanzare, ma soprattutto in qua, questi sai? Giorni, ma forse perché è finita la campagna elettorale, no, non c'entra niente, no, forse perché è finita la festa dell'unità. Allora, quindi per sono quello. Arrivate esatto. tutte qua. Prima erano tutte al Parco Nord e adesso sicuramente invece questo è il motivo. Sono qui con noi. Allora, di che cosa parliamo stasera? Abbiamo un po' di arte contemporanea e poco altro? Abbiamo un po' di arte contemporanea. Io cercavo di automandarmi i comunicati sulla mail per leggerli benino, ma non mi fanno entrare, quindi li dovrò leggere male come al solito. Vabbè, ma dal tanto mio Huawei. Penso che i nostri ascoltatori attenti sanno già che noi leggiamo tutti i comunicati piuttosto male. E anzi, forse è quasi. E grazie a grandi, se li leggiamo. È quasi meglio non essere menzionati da Coxo Spaziale. Però io faccio il rumorista stasera. Che non sì. Anch'io faccio il rumorista, nel senso che la finestra è spalancata e quando arriveranno gli aerei saranno i miei aerei, della mia parte di rumore. Fantastico. Allora, no, io invece ti volevo dire questa cosa, che ieri sera, ahimè, mi dispiace per Roberta perché non l'avevo menzionata lunedì scorso, ma perché non sapevo che ci fosse. Ieri sera sono andata a vedere un concerto di Roberta Giallo, lei è stata qui a Coxo Spaziale. Ma certo, ma ce la ricordiamo. Abbiamo anche, era anche ancora il momento in cui facevo quei bellissimi disegni, un po' tipo ritratti caricaturali, e c'era anche Roberta Giallo e c'era anche Fedra quella volta, secondo me. Fantastico. Ecco, comunque io non l'avevo mai vista suonare dal vivo, cioè l'avevo vista qui in studio, ma non su un palco, e devo dire che sul palco è una vera potenza. E dunque, da bravo ossessivo compulsivo, ne ho registrato un pezzo. E allora lo andiamo a sentire adesso subito. Lo andiamo a sentire, sì, così intanto io mi preparo le altre cose da raccontare. Vediamo oggi, se, perché vediamo se questo non, mi manca. Non sono molto pronto. Mi ha mandato qualcosa. Ma non abbiamo detto una cosa però, Pasquini, scusa. Che eh? Cosa? Che puntata è questa? Ah, dunque, siamo alla 374esima puntata. Ah, bello. 437 e 7, 7, 7, 14. 14, 4, 1, 5. E via dicendo. E via, è così, Zuga Baston. Allora, no, fra l'altro sto pezzo si chiama Eurasia e devo dire che è stato il mio pezzo preferito di tutto il concerto, perché ha cantato un sacco di canzoni di Lucio Dalla, e è molto brava a cantare le canzoni di Lucio Dalla. Più brava di Lucio Dalla? Beh, adesso no. di sicuro un po' diversa da Lucio Dalla, forse. Sì, abbastanza diversa da Lucio Dalla, sicuramente più bella di Lucio Dalla, su questo proprio penso che nessuno possa dire nulla. Io continuo a fare rumori stasera. Mi sembra giusto, ma tanto io ti abbasso così, in un attimo. Ma porca miseria. No, dicevo, questo pezzo, devo dire che del concerto, le sue canzoni, quelle che ha scritto lei da cantautrice, sono state le mie preferite. Effettivamente è pieno di zanzare questo studio. Hai fatto un rumore anche tu, questa era la zanzara, esatto, che moriva. No, purtroppo mi penso di non averla colpita. Comunque andiamoci a ascoltare Eurasia live da, dov'è che eravamo? Piazza Liber Paradisus, adesso da qualche parte ci ho anche scritto come si chiamava la cosa, eh? Comunque intanto ascoltiamola. C'è troppo rumore quando fuori c'è il sole, gente che va, gente che viene, miliardi di persone, viene da chiedersi che ci sto a fare, praticare un po' di yoga non ti basta più, se poi ti ingozzi dentro ad un fast food. San Francisco è bellissima, però forse un po' troppo cara, resta un'altra settimana ancora. E poi bello perché non devo applaudire io, perché c'è già, perché ci sono io che applaudo. Esatto. Ma no, c'è già l'applauso di rumorista. Ma guarda, devo dire, veramente sono commossa. Sei commossa. Ma è bravissima. No, è bravissima davvero. Sono veramente. No, e poi il pezzo dopo era che lei l'ha definito il suo pony da battaglia. Ecco. Il suo pony di battaglia era ancora più spinto, era quindi tostissimo. Immaginiamo quando tira fuori il cavallo che cosa può, esatto, essere. Fatto sta che l'evento si chiamava Luci della Città e funziona per altri 3 giorni. Venerdì 17 settembre avremo alle ore 17 Bestiario in Forma, laboratorio creativo sul riuso, e alle 21 Canto alla Durata e Sentieri nel Ghiaccio, Nicola Borghesi e Lodo Guenzi. Lodo Guenzi è il cantante dello Stato Sociale, non so se te lo ricordi. Vagamente. Sabato 18 settembre alle ore 17 Cattura Luce, laboratorio creativo sul riuso sempre, e alle 21 Match con Yaya Forte e Marta Dalla Via. Addirittura Yaya Forte, caspita. Vedi? Domenica 19 settembre ore 17 Trasformazioni di Scarti, laboratorio creativo sul riuso, e alle 21 Di Luce ed Ombra con Luca Scarlini. E questo è Luci della Città, spazio alla cultura con Enel, concerti, spettacoli, letture in piazza a Bologna, naturalmente in piazza Liber Paradisus 10, nei pressi dello spazio Enel, direzione artistica Elena Di Gioia. Trovate tutto su lucidellacitta.com. E ci voleva lo stacchetto, ma non le ho ancora caricati. Se vuoi, spruzzo un altro po' di autan e faccio qualche altro po' di rumore. In realtà li dovrei caricare l'angolo della menzione, perché anche domani c'è un concertone. E poi anche dopo menzioniamo. No, ma infatti è tutta una menzione questa. Per cui guarda, adesso lo tiro fuori. Mi verrà la malaria, però, secondo me stasera. Perché... O il dengue. Dicevo, no, lo tiro fuori e poi lo suono anche. L'angolo della menzione. Sì, avevo alzato il mixer un po' troppo perché Roberta era un po' bassa. Allora, così, Chopin continua a suonare, come sentite. E noi cosa menzioniamo, quindi? Con la tua, perché la mia è lunga, sarà tutto il resto della puntata. Ah, ecco, allora sarà meglio che ne parli. Sì. Domani alle 18, cioè dalle 18... Alberto Camerini Live a Linkin Park, artista attento ai mutamenti dei gusti musicali in chiave punk dei primi anni 80, è considerato l'Arlecchino del rock italiano per la gestualità che caratterizza le sue esibizioni dal vivo, che richiamano le movenze della maschera bergamasca. Gratis al giardino Pier Francesco Lorusso. La rassegna si chiama Linkin Park, una rassegna estiva organizzata dall'associazione Link 2.0, che ospiterà eventi, workshop e laboratori culturali, proponendo un modello di gestione degli spazi pubblici basato sulla musica, creatività ed educazione ambientale. Sento la musica di sottofondo che sta scomparendo intanto. E non c'è più neanche Chopin. No, infatti, adesso proviamo a vedere se per caso il track dopo funziona. E il live di Camerini inizia alle 20:30. Questo è domani, è da non perdere. Non so Camerini che tu conosci. Che io conosco personalmente, perché l'ho intervistato alla puntata numero 4 di Coxo Spaziale. Sono che è riandata solo... in onda da pochissimo. Il nostro ascoltatore attento, esatto, lo dovrebbe sapere quando l'abbiamo riprogrammata. Ma penso ai primi di agosto, un giorno che non potevo venire qua, l'ho fatta riascoltare. E quindi ce la ritroviamo sul blog senza dover andare indietro di 4-5 anni? Secondo me basta fare questa cosa, andare su www.coxospaziale.blogspot.com e cliccare, fare un cerca, c'è il tasto cerca, scrivere Camerini e troverete un'intervista fantastica, secondo me. Ti è? Fantastico. Poi invece cosa succede? Il 15 settembre a mezzogiorno mi ha scritto stamattina la Sara Zolla, che salutiamo. Ciao Sara. Alle 12 si svolgerà presso il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, in via Domizoni 14, la conferenza stampa di presentazione del dispositivo scenico È tutto qui, di Febo del Zozzo. Adesso io sono uno che io lo pronuncierei Zozzo, per cui ho fatto anche un po' di dizione in questo caso. Facciamole Inky Fingers. Ah, ecco. Facciamo le cose con le fingers. Grazie per averci. Sei posseduto. Aiutato. I tuoi stacchetti musicali si prendono lo spazio. Esatto, infatti quasi insieme ai miei rumori tiro fuori anche questo, guarda. paesaggi spaventosi. Era un po' che non mettevo su un paesaggi spaventosi. Dicevamo, abbiamo detto. Se vuoi ridire il nome così. Sì, no, la conferenza stampa. Esatto, domani, il mercoledì alle 12 al Mambo abbiamo la conferenza stampa del dispositivo scenico È tutto qui di Fevo Del Zozzo, autore, regista e fondatore insieme a Bruno Gambarelli di Laminare Visibile. No, scusate, Laminarie. Infatti. Visibile nel foyer del museo fino al 4 ottobre 2021. L'iniziativa è il punto di avvio di un percorso che ha l'obiettivo di creare una relazione tra tre istituzioni culturali della città di Bologna: Mambo, Teatro Arena del Sole e DOM, la Cupola del Pilastro. Tu la conoscevi la Cupola, certo, del Pilastro? Certo che la conoscevo. DOM. E chi non conosce la Cupola del Pilastro? Io non la conoscevo, scusate. Perché non stai in San Donato e poi non sei attento alla cultura cittadina. Sì, no, infatti era, noi no, abbiamo, devo avuto dire, anche che il Pilastro lo frequento poco. La Gambarelli come assessora che fa parte di questa compagnia. Sono più credo. Un barcaiolo io. Sì. Ok. E dunque, dopo essere stato esposto al Mambo dal 15 settembre al 4 ottobre e nel foyer del Teatro Arena del Sole dal 5 al 22 ottobre, il dispositivo scenico ritornerà al DOM come prologo della rappresentazione teatrale È tutto qui. È tutto qui, no, è tutto lo vogliamo, qui, è tutto lo vogliamo qui, ridire, lo dice sempre lui, nome beh, perché c'è, è così, è il tuo karma. È tutto qui, è caratterizzato da una scritta luminosa, caratterizzato con due Z, di quattro volte caratterizzato da una scritta luminosa. Il teatro valorizza gli imprevisti, cioè la scritta luminosa, c'è scritto il teatro valorizza gli imprevisti, montata su un anello rotante azionato da un motore elettrico. E nel frattempo, ma mentre questo arriva, veramente era un fuori programma, però tutto calcolato. Ti sta, sei eh? Messo d'accordo con Ryanair? Mi sono messo d'accordo con Ryanair. Il meccanismo di rotazione altera la percezione visiva delle lettere luminose che compongono la frase, impedendone la lettura. Per cui o venite alla conferenza stampa, se no non capirete mai nulla. Non capirete niente. Questo è al Mambo, mercoledì alle 12, in via Domizoni 14, e dopo naturalmente su www.coxospaziale.blogspot.com scoprirete tutto, di tutto, anche il link dell'evento. Ne abbiamo ancora, Ne hai ancora? Ne ho perché, ancora. Perché qua il tempo stringe, quindi, no, hai ragione, perché oggi finiamo presto, hai ragione. Appunto, quindi datti una mossa. Mi do una mossa. Dunque, cosa mi è rimasto? Allora, mi è rimasto... Ti è rimasto, non sappiamo cosa dire, perché pazzesco. Lo so, no, ma mi è rimasto Ipercorpo a Forlì, cioè che è una che è un festival, è il 17° festival. Siamo gli Inky Fingers. Ah, ecco, grazie. Avevo bisogno delle Inky Fingers che mi aiutassero anche in quest'istanza. Dicevo, è il 17° festival internazionale delle arti dal vivo di Forlì. Dal 15 al 19 settembre. Cosa succede all'interno di questo festival, che è una roba enorme? Abbiamo la sezione arte di Ipercorpo 2021, che è una roba piccola, che è a cura di Davide Ferri con la collaborazione di Miral Rivalta. Hai capito? Che si intitola Nuovamente verso sera, per alludere a una proposta di fruizione delle opere all'imbrunire. Abbiamo come autori Emanuele Becheri, Giovanni Ozzola, Corinna Gosmaro, anzi dovrei anche dire i giorni, perché questi appaiono un giorno a testa, per cui Emanuele Becker il 15 settembre, Giovanni Ozzola il... si dice Ozzola o Ozzola? Ma io penso che si dica Ozzola, però... Ozzola, ok. Ma poi facciamo un bel corso settembre. Di come si pronuncia appunto it, perché mi sa che ne abbiamo un attimo bisogno. Corinna Gosmaro, 17 settembre. E Sissi il 18 settembre, e poi guarda caso finisce con Davide Rivalta il 19 settembre. Guarda caso, stranissimo. Tutto quanto trovate tutto su www.ipercorpo.it, che appunto ritroveremo anche sul nostro blog. Mi dispiace non avere uno stacchetto dedicato a Ipercorpo, ci poteva stare proprio una cosa ad hoc. Vorresti uno stacchetto per Ipercorpo? Proprio suo specifico. Ok. Però non abbiamo tanto tempo, perché mancano 3 minuti alla pubblicità, almeno da questa parte qui. E dobbiamo parlare? E dobbiamo almeno dare la notizia, perché poi la seconda parte della trasmissione è tutta dedicata a Norese, no? Sostanzialmente sì, no, vabbè, okay. Dedicata al premio Suzzara. di cui Norese fa parte. Quindi se, cioè, tu dovresti avere tra le tue corde lo stacchetto del fuoriporta, perché Suzzara non è propriamente a Bologna. Esatto. Non è neanche in Emilia. Ma prima di Suzzara volevo dire che sabato scorso ha inaugurato Dario Picariello L'acqua le bagna come il vento le calpesta, non so perché c'è la musica di un matrimonio, al Labs Contemporary Art, che è in via Santo Stefano 38 a Bologna. E adesso non diremo niente su questa mostra perché tanto ha già aperto, per cui ve l'andate a vedere e basta, ma troverete tutto sempre sul nostro blog. Bene. Mentre invece, allora adesso vado, come cavolo, no, si chiamava fuori porta. Devo trovare lo stacco che non troverò. Vabbè, insomma, magari lo mandiamo già in itinere. Io intanto comincio. Tu cominci. Quando sei pronto. Allora, oggi è tutto un po' così, alla rinfusa. Stacchetti alternati a notizie varie, non si capisce quasi niente, ma su Zara, sì, che si trova in provincia di Mantova, ospita un glorioso premio che è a luogo all'interno dell'omonima galleria, che si chiama appunto Galleria del Premio su Zara. Lo ospita da tantissimi anni, poi il numero esatto non me lo ricordo, ma saranno sui 50 se non addirittura 70, ce lo dice dopo un espertissimo che consulteremo nel merito della questione. Esatto. E la settimana, il prossimo fine settimana, quindi sabato 18 settembre e domenica 19 settembre, si inaugura la nuova edizione del Premio su Zara, che comincerà alle ore 18:20 alla Galleria del Premio con la presentazione dell'opera di Francesco Candeloro, Soglie di luce del tempo, progetto realizzato da De Vicenzi nel 1983. L'evento comprende la visita al museo e presso la sede dell'azienda De Vincenzi, 1983. Si svolgerà in gruppi di 25 persone, nelle seguenti fasce orarie, non ve le leggo tutte, vi spiego a voce che si arriva là alle 18:20, si partecipa all'inaugurazione, poi partono dei pullman che a rotazione portano le persone in azienda, perché una caratteristica del premio su Zara è quella di mettere in relazione le opere degli artisti con il mondo produttivo, proprio produttivo, aziendale, industria pesante. Su Zara è un distretto. La rubrica di Zino. Ho trovato questo, come non va bene, va bene lo stesso. No. Vabbè. Con tutto il bene che vogliamo a Zino, però non è. Salutiamo Zino. Ciao Zino. E dunque, quindi stavo dicendo prima che Pasquini mi interrompesse per sotto le mentite spoglie di Zino, che il premio su Zara ha come sua caratteristica principale quello di mettere al centro la questione del mondo del lavoro. Ecco, quindi in questa, diciamo, negli ultimi anni, poi ci spiegherà l'espertissimo, questa declinazione, insomma questo rapporto si è declinato in un modo molto particolare e gli artisti hanno collaborato direttamente con delle aziende per produrre le proprie opere. Poi domenica 19 settembre si continua alle ore 9, quindi le 9 di mattina, okay. Gli Audaci saranno presenti in loco, sempre alla Galleria del Premio, in via Bosco 2/A, il Dolce del Premio su Zara, progetto di Giancarlo Norese, esposizione dei dolci realizzati dalle aziende e dai cittadini, set fotografico, raccolta di informazioni sul dolce, e poi vi lasceremo anche sul blog una serie di numeri e di indirizzi per poter partecipare, perché chi vuole può partecipare alla produzione di questo dolce. Ah, non a mangiarlo. Beh, poi si mangia anche, ma credo che qua sia, uno può anche poi chiamare e informarsi se può partecipare solo mangiando, non lo so, sicuramente. Okay. No, mi sta venendo voglia. Infatti, ma anche perché un dolce progettato da Giancarlo Norese, cioè, deve essere particolarmente dolce, secondo me sarà delizioso. E dopodiché, sempre contestualmente, domenica 19 settembre, la Galleria del Premio su Zara inaugura anche una retrospettiva di Tiziano Campi, che si chiama Capitano Izim, mostra a cura di Sauro Cardinali e Umberto Cavenago. E ricordiamo che Tiziano Campi è un artista che ha partecipato con i propri progetti, con le proprie proposte al premio su Zara e che purtroppo è scomparso quest'anno. Non quindi mi dispiace. La Galleria del Premio su Zara lo ricorda così. Adesso è il tempo della pubblicità e poi gli approfondimenti sul premio su Zara. Stai ascoltando Coxo Spaziali. Senza l'impegno di lavoratrici e lavoratori. Camilla.coop. Cox spaziale. This is Cathead. This is Lova. This is the opposite game. Okay, the opposite of mail art is a medical bill. The opposite of a medical bill is a lottery ticket. The opposite of a lottery ticket is a arcade coin. The opposite of an arcade coin is the sword and the stone. The opposite of the sword and the stone is the marshmallow and the jello. The opposite of the marshmallow and the jello is moldy peaches. The opposite of moldy peaches is a worm in the ground. The opposite of a worm in the ground is a snake in a cloud. I meant to say dragon. I'm going with snake. Snake, yes. Snake in a cloud. The opposite of snake in the cloud Buongiorno, dividerò il mare, dividerò la luna, dividerò te con il sole perché tu sei solo mia, ti amo amore mio, buongiorno da Marco Roma. Abbiamo messo anche Marco Roma in mezzo. Sei riuscito a inzappare dentro un po' di tutto. Sì. Sì. No, anche perché è un po' lunghina questa cosa, per cui farei così. E andrei avanti con la trasmissione. Sì, anche perché... Oddio! Sì, è partito sempre che un colpo. Sì, certo. Adesso un giorno farò un corso di missaggio e finalmente qualcuno riuscirà a gestire il mixer come si deve. Esatto, perché qua vedo che la situazione è fuori controllo. E stavamo parlando del premio su Zara. Stavamo parlando del premio su Zara, confermo. Che avrà luogo presso la galleria del premio su Zara, in quel di Suzzara, Tocche Strano, Mantova, in provincia di. E, il 18 e il 19 di settembre uno degli eventi clou per noi che siamo dei suoi fan è il dolce del premio progettato da Giancarlo Norese. Giancarlo Norese è l'artista che non deve parlare mai, ci manda delle cose da leggere che gliele leggo io adesso quando è passato Ryanair qua. Bombasso. Ci introduciamo allo scritto di Giancarlo che dice: il mio progetto sul dolce del premio deriva da una riflessione su come nascono le tradizioni, quelle che a volte fungono da alibi per varie disumanizzazioni. Senza errori, senza contaminazioni, punto esclamativo, secondo me si riferisce al virus, senza caso, senza assimilazioni delle diversità, non vi saranno né buoni uomini o donne, né ottima cucina. Noi stessi siamo fatti di organismi che per la maggior parte non siamo noi, e immagino che Chiara lo sappia bene. Chiara sono io, quindi ringrazio Giancarlo Norese per avermi citato. Lo sai bene? Sì, lo so bene, l'avevo scritto anche nella mia tesi di laurea, magari ti fotografo la pagina così mettiamo la prova provata di ciò. Allora, se uno va a Berna, dove l'orso è etimologicamente parte del nome della città, troverà un dolce tradizionale a forma di orso. Se si va a Suzzara, troverà probabilmente del parmigiano e i residui di quel famoso motto inventato da Dino Villani: un vitello per un quadro, non abbassa il quadro, innalza il vitello. La mia proposta di dolce, eventualmente prossimamente tradizionale, invita i cittadini, non solo di Suzzara, quindi anche i cittadini di Bologna, per esempio, a immaginare un dolce che abbia le fattezze di questo vitello alato perché innalzato, che ho disegnato per il nuovo logo del premio. E questo riguarda l'evento del 19 mattina, quindi il dolce della domenica. Tutti a Suzzara. Tutti a Suzzara. Ad accaparrarsi il dolce di Norese per fare poi bella figura coi parenti a ora di pranzo. Io per l'occasione ti faccio sentire una canzone delle LA Axis, l'unica che non avevamo ancora fatto sentire. Si intitola Cocaine Girl. Non per consigliare a Norese di mettere un po' di droga in questa torta. Però se adesso lo dici così. You find a cure for boredom. Lord help me, I will. You're a risk I hold on to, but it's all in vain. You don't love me like cocaine. You don't love me like cocaine. Always in shambles, why don't you just stay? You don't chiamando su WhatsApp, perché su WhatsApp ed è occupato, Marco Panizza non mi risponde. Marco Panizza, adesso come facciamo? Io poi se mi metto il cuffione non riesco a sentire se la chiamata prende qui con i nostri sofisticati mezzi. Okay. Vediamo un attimo. Fedra, dove sei? Fedra, quando aiuto. Lei poteva prendere le chiamate direttamente dal coso. Come si chiama? Forse Marco Panizza. Servizio di segreteria telefonica. Ok. Risponde la segreteria telefonica. Occhio che ti dice il numero. No, adesso lo togliamo subito. Non andiamo a fare disclosure. Forse Marco Panizza ci ha ripensato. E ha detto andate a cagare voi e Coxo Spaziale. No, esatto, no, forse non gli è piaciuto quello che abbiamo detto prima, non lo so. Dici? Sta di fatto che non stiamo riuscendo a metterci in contatto con lui. Io avevamo intercettato Marco Panizza perché lui è lui è esperto, il cuore pulsante, memoria storica, esatto. Diciamo memoria storica del premio Suzzara e neopensionato, quindi diciamo che poteva essere la persona giusta per raccontare un po' la storia nei dettagli che io ovviamente non mi ricordavo, tipo quanti anni fa è nato il premio eccetera eccetera. Però vedo una chiamata vocale persa, forse ci riproviamo, ci riproviamo. Ritentiamo. Io nel frattempo. Sentiamo sempre questo suono, lo inseriamo nel. Eccolo. Pronto, Marco Panizza, ci sei? Ciao. Ciao, sono io. Sei tu, abbiamo avuto qualche difficoltà di collegamento, ti trovavi? Perché ho delle posizioni qui a casa mia dove non prende a volte, ci sono dei momenti in cui non prende. E va bene, allora adesso noi... Mi sono spostato. Adesso siamo su web, perché ti sto chiamando con WhatsApp. Sì. Ti abbiamo già introdotto, abbiamo già parlato di tutto quello che succederà il 18 e il 19 a Suzzara, però ci mancavano un po' dei dettagli su quella che è stata la storia, diciamo, che tu conosci, perché tu sei la memoria storica di questo, diciamo, della Galleria del Premio negli ultimi quanti anni? 20 anni, ho iniziato poco più di 20 anni, ho iniziato tra il 99 e il 2000. Hai capito, e sei andato in pensione proprio adesso? Anzianità. E ci sono ancora dei fortunati che possono godere di questa esperienza. Raccontaci un pochino, allora, io intanto non sapevo a quale edizione siamo arrivati del premio, che numero è? 18? Questa è la 50esima. È proprio il 50esimo premio Suzzara. Ah, è proprio il 50esimo, vemo? È il 50esimo, che non corrisponde naturalmente in termini di numeri alla prima edizione, che è venuta nel 48, perché ci sono state delle interruzioni, capisci, negli anni 70. Altrimenti saremmo nel 2008. Senti, ma tu non potevi aspettare un altro mese per andare in pensione, non ho capito. Proprio, guarda, non c'era più niente da da spremere, ecco. T'hanno cacciato via praticamente. Proprio sì, mi hanno cacciato via. Credo di essere molto desiderato. Ecco, questa è quella l'impressione che ho. Vabbè, ma queste sono cose che noi non interessano, perché noi interessa solo la storia del premio. E vogliamo sapere, allora raccontaci, perché io ho letto una cosa di Giancarlo Norese, che ha progettato il dolce del premio. Intanto noi abbiamo invitato qui anche i bolognesi a partecipare, che possono partecipare alla produzione di questo famoso dolce, non è limitato solo ai suzzaresi. E Norese cita Dino Villani. Perché Dino Villani e il premio Suzzara? Dino Villani è l'artefice, cioè è quello praticamente che l'ha inventato. Dino Villani era, per farla molto breve, insomma, abitava a Suzzara, poi si è trasferito a Milano. Devi tener conto che negli anni 30 del Novecento, quindi è diventato responsabile della pubblicità della Motta, inventa la M della Motta, fa diventare il panettone un dolce nazionale, perché prima era un dolce esclusivamente milanese, inventa la colomba di Pasqua, inventa Miss Italia nel 39, con 1.000 lire per un sorriso, ed è considerato, adesso non ti dico tutte le altre invenzioni, è considerato oggi il padre della pubblicità in Italia, è ancora studiato, i suoi testi sono ancora studiati nelle università più importanti, vari Politecnici di Milano, Torino. Anche recentemente ho visto che era nel programma di studio. Ecco, cosa succede? Succede nel 1948, quindi siamo nell'immediato dopoguerra, che il sindaco comunista di allora, Tebe Mignoni, aveva bisogno di un'idea, perché sai che qui si facevano solo delle mostre campionarie, hai capito? Quindi, tipo, essendo fiera una zona agricolo-industriale, essendo una zona agricolo-industriale, quindi ricchissima fino da 1865, ecco, con la storia delle macchine agricole, ecco, cioè è sempre stata un'evoluzione, ecco, a livello industriale, a livello tecnologico, su Zara, anche nei momenti di crisi, su Zara sempre prodotto, inventato, ecco. Tebe Mignoni però si accorge che evidentemente nel dopoguerra, per ridare speranza, roba del genere, ha bisogno anche di qualcosa di diverso, perché i giovani non partecipavano più. Si ricorda di avere questo grande amico a Milano e gli chiede un'idea. E Villani, proprio partendo dalla nostra situazione di zona agricolo-industriale, inventa questo premio di pittura, cioè pensando, mettendo in atto tutta una serie di strategie di comunicazione che oggi vengono definite come pubblicità integrata. Cioè, inventi il titolo intanto, lavoro ai lavoratori nell'arte, inventa un premio di lavoratori nell'arte, ante litteram. Lavoro ai lavoratori nell'arte, proprio perché Suzzara aveva questo di caratteristica, come caratteristica, e pensava proprio di far diventare Suzzara la vetrina di quello che allora veniva definito il realismo sociale. Ecco, c'erano già segni con Guttuso, con tutta una serie di artisti che avevano già, e poi esporranno anche alla grande, alla Biennale di Venezia, eccetera eccetera, insomma lui interessava questo, ecco, questo modo, ecco, di perché pensava, come si diceva allora, un'arte per tutti, ecco, e lui riteneva che il neorealismo fosse, tenevo conto che allora il neorealismo, guardiamolo storicamente, realismo sociale, ecco. Vabbè, negli, diciamo, anni neorealismo... 50 siamo lì, ecco. Sì, esatto, è più diciamo nel cinema, ecco. Però allora era, tra virgolette, un discorso, un linguaggio d'avanguardia, ecco. Poteva essere considerato un linguaggio d'avanguardia perché erano pochi allora quelli che riprendevano un certo tipo di discorso, ma anche un certo tipo di ideologia, e mi riferisco naturalmente soprattutto a Gramsci, quindi il concetto di populismo, di nazional popolare, eccetera eccetera, ecco, parole che sono bombe, ecco, usate oggi se non storicizzate, ecco. E appunto lui inventa questa storia del lavoro e lavoratori nell'arte, un premio di pittura con una giuria però particolare, con esperti, diciamo i grandi esperti che lui conosceva a Milano, quindi grandi galleristi come Cairola eccetera eccetera, e poi però dice, mette nella giuria un operaio, un impiegato e un contadino, ecco, fantastico, primo... così quando tutte le volte che qualcuno fa un premio, partecipa a un premio o magari vince un premio, qua nel sistema dell'arte che ben conosciamo ti chiedono subito ma chi c'era in giuria, per capire se hai vinto, sì, una, certo, roba, certo, che vale o non vale, e quindi Dino Villani rompe questi schemi dicendo, sì, la giuria, sì, sì, è una giuria operaia. Ci vorrebbero 10, 100, 1000 Dini Villani. Esatto, e anche 110.000 operai che forse ci sono, ma e anche Marco Panizza, e anche 110.000 Marco Panizza che non vanno in pensione per altri 100 anni. Ma veniamo un attimo al giorno, non proprio all'oggi, non proprio al domani, ma all'altro no, ieri, no, volevo, beh, sì, perché questa declinazione, diciamo, ideata da Villani nel 48 ha preso negli ultimissimi anni una veste un po' diversa da quella dello storico premio di pittura, dico bene? Certo, io posso, diciamo che abbiamo condotto dal 2010 in poi, ho potuto condurre una serie di sperimentazioni proprio per, come si dice, inventare la tradizione, cioè reinventare la tradizione, perché ritenevo che da ormai da 20 anni il premio non avesse più senso, sembrava più, capisci, un male necessario, ecco, l'ho vissuto così i primi anni, che sono stato zitto per cercare di capire, capisci, i primi anni 2000, e vedevo proprio questa giuria, questa amministrazione, questa voglia di rifare il premio, che non era più una voglia, ma era vissuta quasi come un male necessario. Io mi chiedo perché. Allora dal 2010 ho cominciato a mettere in crisi le vecchie formule, ecco, cioè l'obbligo di avere 3 critici, eccetera eccetera, insomma ho scaravoltato tutto, in parte naturalmente gradualmente. Prima ho collaborato con una operatrice museale, una direttrice del museo, la Zanella del Museo Maga. Perché nel 2002 veniva fondato il museo, allora avevo bisogno di qualcuno, siccome avevamo già lavorato a Milano insieme per un anno, per 2 anni su Twister, che era quel progetto regionale sull'arte contemporanea, secondo me mi serviva qualcuno che si occupasse di museo, non tanto un critico d'arte, capisci, perché secondo me il fatto che fosse nato un museo doveva essere tenuto in conto, ecco, invece no, viaggiamo ancora parallelamente. Ho fatto un altro passaggio, poi siamo arrivati a No Play Space nel 2016, ecco, che è stata una grande rivoluzione, una grande kermesse. No Play ce lo racconta un attimo Pasquini, cos'è? Esatto, no, questa cosa rizomatica è stata fantastica, cioè, ovvero è stata fantastica, tutti gli artisti potevano chiamare altri, fino a altri 4, fino a che alla fine quanti artisti sono stati il totale? 550 circa. Uno fantastico. Chiamava altri 4, Svizzera, Francia, Inghilterra, Germania, insomma è stato una cosa inaspettata e una bomba, ecco, è stata una bomba secondo me, già in perfetta sintonia con la tradizione da reinventare, ecco, proprio perché dovete immaginare che, per chi non c'è stato, che l'accoglienza è stata preparata per esempio dai suzzaresi attraverso l'ospitalità a tutti gli artisti, abbiamo coinvolto le associazioni, cioè c'è stata per un reinserimento del rapporto con la gente con l'arte contemporanea, insomma, un rapporto che non esisteva più. Ecco, io mi ricordo che praticamente è stata una due giorni di arte totale, perché c'era il paese, il paese si era completamente riempito di artisti, di happening, performance, era diventato tutto l'arte totale. E invece poi dopo questa esperienza di No Place Space, ecco, dopo questa esperienza che fu fatta con molto timore naturalmente, però dopo poi ci fu molta soddisfazione, ecco, perché capisci che fare queste proposte anche alla politica diventa sempre molto molto difficile, ecco, farsi capire, ecco. Vabbè, comunque il sindaco lo accettò, accettò il rischio proprio grazie a lui, e dopo questa esperienza proprio mi chiese il sindaco di pensare a un coinvolgimento eventuale delle aziende del territorio. Da cui nasce questo? Semplice. Cominciai a pensarci su. Tu sai che nel frattempo io, dopo No Place, grazie a No Place, ma anche prima, avevo come amico Umberto Cavenago, che conosci bene anche tu. Ecco, quindi siccome l'avevo sentito, mi aveva detto che lui aveva già fatto esperienze di questo tipo, di collaborazione con aziende nel bergamasco, ecco. Allora, quindi... Umberto, proviamo a trovare un'idea, e allora nasce questa arte lavoro impresa, dove anche questa su due o tre cose due o tre pilastri, ecco, importanti. Per esempio, la prima è mettere in rapporto, cioè produrre un'opera d'arte coinvolgendo le aziende non come sponsor, ma come produzione diretta di un bene comune. Esatto, cioè l'opera, quindi... che le aziende, l'artista e il progetto che noi mettiamo a disposizione alle aziende viene scelto dall'azienda e in collaborazione con l'artista viene prodotto, cioè viene realizzata un'opera che poi diventa bene comune, cioè piena di proprietà del museo, quindi della cittadinanza, e può essere collocato o nell'azienda o in spazi pubblici che l'azienda e l'artista insieme decidono dove realizzarlo. Ecco, questo proprio in molta ci vorrebbero, sintesi, ecco. ci vorrebbe un'altra puntata, esatto, di Coxo Spaziale per parlare invece questa è finita. Il nostro tempo è finito, per cui ti ringraziamo tantissimo, e poi speriamo di vederci a Suzzara domenica, no? Sì, ci vedremo. Ci vedremo su Zara domenica, perfetto. Da qualche parte ci vedremo. Bene, ecco. Da qualche parte ci vedremo. Noi intanto sul nostro salutiamo Marco Panizza e ricordiamo che sul nostro blog verranno ridati tutti gli estremi, sia relativi agli appuntamenti del premio che anche per poter partecipare alla preparazione del dolce di Giancarlo Norese. Io non mi sottrarrei a questo... Secondo me uno zampino bolognese nel dolce del premio ci vorrebbe. Non so, Pasquini, vuoi provarci tu? Magari Zino, chissà se ha voglia da Rimini di venire. È un sacco che non lo vedo, Dai, Zino, vieni a Suzzara. O Marco Roma, suona anche, perché no? Marco Roma. Beh, vabbè, detto questo, ci salutiamo così. Aspetta. No? Dove è andato? L'hai sentito partire ma con questo basso, eccolo, livello di radiofonia. Ascoltiamo la sigla. E questo era Coxo Spaziale. Noi eravamo Pergola Chiara, Marco Panizza e Stefano W. Pasquini. Giancarlo Pasquini Norelli. Con la Z di Zorro, di Zavorra, anche di altre parole, ma non le diciamo. Adesso ti abbasso così la smetti. Out of dreams, the better of two evils, babe. So one time.